Distorted noise, and the Se vuoi capire la loro storia, diceva Sciazzi, devi sapere quanti colpi aveva una pistola a quei tempi. 6. Lei diceva che era un numero perfetto. Pensaci e fallo suonare quel ritmo. 6 colpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Lo senti il silenzio dopo? Quello sì è un silenzio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silenzio. È come un respiro. Ogni caricatore è un respiro. Puoi respirare veloce o piano, ma ogni respiro è perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respira silenzio. Adesso. Quanti colpi c'erano in una pistola? 6. Allora ti raccontava quella storia. terrible dream all the time where he's running and running and running, but he's not getting anywhere. Bye. Espesa en Buenos Aires. Volver al sol a salir. El Paco haciendo estragos. It's deadly, it is highly addictive. It's called Paco. Gente sin porvenir. Amargo desencanto, tener que verte así. República Argentina. Argentina de plata. Extraño sentimiento, pasión, desilusión, como en la serenata, Argentina's economic collapse in the year 2000. Nothing is impossible. Nothing is impossible.